Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Prenderà il volo ai primi di ottobre a bordo di un pallone aerostatico che lo porterà ad altezze suborbitali. Si chiama Polaris ed è una specie di radiatore spaziale ideato da un gruppo di studenti dell'Università di Padova per tentare di risolvere uno dei problemi più annosi che sonde e navicelle incontrano nello spazio: mantenere sotto controllo la temperatura. Infatti nello spazio disperdere il calore è molto difficile, dato che in assenza di aria, conduzione e convezione non esistono e rimane per raffreddarsi solo l'irraggiamento. Non solo, tra la superficie di una sonda esposta al sole e quella all'ombra possono esserci centinaia di gradi di differenza. Insomma, uno scenario da incubo. Ma diamo il benvenuto al nostro ospite, Matteo Zorzan, 23 anni, pensate un po', ideatore insieme a un collega studente e portavoce del progetto Polaris. Buonasera Zorzan. Buonasera a voi. Senta, allora partiamo dal problema. Come viene affrontato attualmente? Come si fa a proteggere sonde e navicelle dal troppo freddo o dal troppo caldo? Viste le condizioni estreme a cui è soggetta una navicella nello spazio, si tenta di isolare il più possibile l'interno, diciamo, dall'esterno. Tuttavia l'elettronica a bordo della navicella ha la necessità di dissipare il calore, certo, che produce. Quindi vengono utilizzati, diciamo, dei canali di scolo per questo calore e si chiamano radiatori spaziali. Quelli attualmente in uso sono delle piastre di alluminio e tuttavia presentano dei problemi in quanto funzionano solo per determinate missioni specifiche con degli assetti specifici. Quindi non c'è una soluzione generale, e soprattutto una capacità di adattamento, no? Cioè, se la roba sta sempre lì funziona, se la sposti o la fai ruotare non funziona più. Esattamente, esattamente. Diciamo che ci sono dei dispositivi che riescono in qualche modo a compensare questa cosa, tuttavia hanno dei costi esorbitanti e delle tecnologie molto molto complesse. Complesse e critiche, quindi, no? E non ci si possono permettere errori poi quando si è nello spazio. E quindi voi come avete risolto il problema? Quindi noi abbiamo ideato un dispositivo, un radiatore spaziale che è scomposto da tre piastre che possono essere messe in contatto termico, quindi tutte quante attaccate, appiccicate l'una separate. Quindi cambiando geometria, cambiando forma del radiatore, voi riuscite a controllare la sua dissipazione di calore? Esattamente, quando le piastre sono chiuse ci permette di dissipare verso l'esterno il calore, mentre se apriamo le piastre, queste ci permettono di mantenere all'interno il calore. Quello succede? Si ha una, diciamo, una moltiplicazione di tre volte del calore dissipato quando le piastre sono chiuse rispetto a quando sono aperte, quindi permette di cambiare in modo attivo a seconda delle condizioni che ci sono all'esterno. Dunque, e questo dispositivo però si chiama Polymer Actuated Radiator with Independent Surface. In realtà noi abbiamo spiegato fin qui la seconda parte del nome, ma non la prima, che è almeno altrettanto innovativa. Che cosa sono quindi questi attuatori polimerici, che poi sono quelli che appunto fanno muovere queste piastre? Sì, sono i dispositivi innovativi che stiamo studiando noi anche sul piano di ricerca universitaria. E sostanzialmente si tratta di materiali trattati in modo particolare che rispondono a una tensione elettrica allungandosi. Cosa succede? Ci sono, diciamo, due piastre come un condensatore con in mezzo un materiale polimerico isolante. Le piastre si attraggono e il materiale, diciamo, spinge nella direzione desiderata. Un po' come quando si spreme un tubetto, no, del dentifricio, sostanzialmente. Esattamente. La grande novità è che questi polimeri non sono mai stati utilizzati a quelle quote per applicazioni spazio. Tuttavia possono avere delle enormi ricadute su muscoli robotici, su applicazioni mediche, quindi è una cosa molto interessante che stiamo studiando. Voi siete i primi in pratica anche che vi siete messi a produrre al mondo questi attuatori, ho capito bene? Sì, diciamo che questi attuatori sono molto personalizzati a seconda dello scopo. Certo. Per il tipo di scopo che desideriamo noi siamo tra i primi a farli. Ecco, ma perché complicarsi, mi scusi, tra virgolette, la vita, cioè inventandosi qualcosa di nuovo quando insomma ci sono i motori elettrici da 100 anni? Beh, diciamo che sorpassa molti problemi che hanno i motori elettrici. Diciamo sono più affidabili, sono meno costosi, sono più performanti. Diciamo consumano che molta meno energia, questo è importantissimo quando si è nello spazio, no? Cioè una volta che hanno assunto la loro posizione la mantengono senza bisogno di consumo di energia. Invece con i motori elettrici non funziona così. Sì, esattamente, oltrepassano anche il problema della lubrificazione, che è un problema molto importante nello spazio, cosa che i motori elettrici necessitano assolutamente. Senta, allora tra poco andrete in suborbita, diciamo, col vostro esperimento. Che cosa vi attendete da questa prima prova sul campo? Anzi, sul campo, nello spazio più che sul campo. Sì, Esattamente, andremo a lanciare presso una base 150 km a nord del circolo polare artico e sarà un test per raccogliere informazioni e vedere se quello che abbiamo previsto, il funzionamento del radiatore, è uguale a quello che poi andremo a misurare effettivamente sul campo. Speriamo di sì, in modo da validare appunto i nostri studi. Grazie Zorzane, avanti così. Grazie a voi, buonasera. È tutto, a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.